Diciassettesima unità. Una vita straordinaria. Dialogo. Una vita straordinaria. Buonasera e benvenuti al nostro programma Italiani di successo. Questa sera abbiamo un ospite eccezionale, il signor Tommy Losanto, italo-americano di Boston. Come certo sapete, il signor Losanto è ora proprietario della maggior catena di ristoranti negli Stati Uniti. Signor Losanto, ci racconti la sua straordinaria carriera. Dov'è nato? Vicino a Palermo. Ero il maggiore di 12 figli. Mio padre era muratore finché perse il lavoro. E allora? E allora, come tanti altri italiani, decise di cercare fortuna in America. Partimmo lui e io. Io avevo 14 anni. E a Boston? All'inizio non fu facile, anche per via della lingua. Trovai lavoro come cameriere in un ristorante italiano. Meglio che niente. Poi mi venne un'idea. E cioè? Feci venire in America anche mia madre e mettemmo su un ristorantino. Lei era una cuoca eccezionale. Il locale diventò il migliore della città. E adesso i ristoranti sono diventati moltissimi, una catena. Esatto. A 30 anni ero già ricchissimo, ma avevo trascurato gli studi e mi sentivo ignorante. Allora presi un diploma. E poi seguì un corso di economia. Perbacco! E si laureò? Sì, e ci tengo a dire che presi il massimo dei voti. Ma non è finita qui. Ah no? E cosa fece ancora? Volli fare un'esperienza in un campo nuovo, quello della politica. Ebbe successo anche qui, naturalmente. Sì, diventai senatore. Lo sono ancora adesso, dopo tanti anni. Non c'è che dire. La sua carriera è stata davvero straordinaria. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Buonasera e benvenuti al nostro programma Italiani di successo. Questa sera abbiamo un ospite eccezionale, il signor Tommy Losanto, italo-americano di Boston. Come certo sapete, il signor Losanto è ora proprietario della maggiore catena di ristoranti negli Stati Uniti. Signor Losanto, ci racconti la sua straordinaria carriera. Dov'è nato? Vicino a Palermo. Ero il maggiore di 12 figli. Mio padre era muratore finché perse il lavoro. E allora? E allora, come tanti altri italiani, decise di cercare fortuna in America. Partimmo lui e io. Io avevo 14 anni. E a Boston? All'inizio non fu facile, anche per via della lingua. Trovai lavoro come cameriere in un ristorante italiano. Meglio che niente. Poi mi venne un'idea. E cioè? Feci venire in America anche mia madre. E mettemmo su un ristorantino. Lei era una cuoca eccezionale. Il locale diventò il migliore della città. E adesso i ristoranti sono diventati moltissimi, una catena. Esatto. A 30 anni ero già ricchissimo. Ma avevo trascurato gli studi e mi sentivo ignorante. Allora presi un diploma e poi seguii un corso di economia. Perbacco. E si laureò? Sì, e ci tengo a dire che presi il massimo dei voti. Ma non è finita qui. Ah no? E cosa fece ancora? Volli fare un'esperienza in un campo nuovo, quello della politica. Ebbe successo anche qui, naturalmente. Sì. Diventai senatore. Lo sono ancora adesso, dopo tanti anni. Non c'è che dire. La sua carriera è stata davvero straordinaria. Vocaboli pagina 441. Pittore, scultore, marinaio, scrittore. Altri vocaboli di pagina 441. Carrozziere, falegname, idraulico, meccanico. 17ª unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 19. Alla stazione di polizia. Buongiorno, signorina, mi dica. Ecco, dovrei denunciare un furto. Anzi, no, un'aggressione. Cosa le è successo esattamente? Ecco, verso mezzogiorno stavo uscendo dall'ospedale maggiore. Sa, ho mia madre là che ha appena avuto un'operazione. Insomma, mi trovavo nel piazzale davanti all'ospedale quando ho visto arrivare una macchina che si è fermata a poca distanza da me. Che macchina era? Ha visto il numero della targa? No, quello no. Mi sembra che fosse una tipo blu. Sono scesi degli uomini e... Quanti erano? Ne sono scesi due e ce n'era un altro al volante. Beh, i due mi sono venuti vicino e uno mi ha detto: dacci la borsa e non fare storie, siamo armati. E lei? Gliel'ho data subito. Ma cosa dovevo fare? Ero terrorizzata. Le saprebbe riconoscere? No, no, erano mascherati. Cioè, avevano dei fazzoletti sulla faccia e dei grandi occhiali neri. E poi? Poi una signora ha visto la scena e si è messa a gridare per attirare l'attenzione degli altri passanti. Sa, c'era un sacco di gente nel piazzale. Ma nessuno si è mosso, nessuno mi ha aiutato. Così quei due hanno avuto tutto il tempo di risalire in macchina e di andarsene. Ho capito. Adesso mi servono gli altri dati per il verbale della denuncia. Data di nascita? Esercizio 20. Giotto di Bondone. Certamente conoscete il famoso aneddoto di Giotto Fanciullo che fu scoperto da Cimabue mentre disegnava dal vero le pecore a lui affidate in custodia. La storiella può servire a chiarire il concetto che la pittura di Giotto nacque nuova e prese a modello direttamente la natura. Giotto entrò nella bottega di Cimabue e seguì il maestro nei suoi viaggi di lavoro a Roma e nel soggiorno ad Assisi. E proprio Assisi divenne, durante l'ultimo decennio del secolo XIII, il centro dell'attività di Giotto. Nella prima immagine vediamo la Predica agli uccelli, che fa parte della serie di 28 riquadri dipinti nella Basilica Superiore di Assisi. Nel percorso stilistico di Giotto, questo ciclo, conosciuto come Storie di San Francesco, rappresenta la conquista della piena padronanza della forma e segna l'inizio di una nuova tradizione figurativa. Probabilmente nello stesso periodo, intorno al 1300, Giotto dipinse il crocifisso che si trova nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze e che vedete nella seconda immagine. La terza e quarta immagine si riferiscono alla Cappella degli Scrovegni a Padova, che Giotto decorò fra il 1303 e il 1305. Questi affreschi sono il frutto della maturità artistica di Giotto. In essi la luce si fonde con il colore e il paesaggio è in perfetta armonia con il ritmo del racconto. Qui vediamo nell'ordine la fuga in Egitto e l'ascensione di Gesù. Fra il 1334 e il 1337, anno della sua morte, si dedicò anche all'architettura. Nella quinta immagine vedete il famoso campanile del Duomo, che Giotto progettò e che fu poi modificato dagli architetti che ebbero il compito di completarlo dopo la sua scomparsa. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 454. Dunque, dovete andare all'estero per trovare lavoro? Beh, non è proprio così. Dopo la laurea in medicina andai negli Stati Uniti per fare un corso di specializzazione. Ah, capisco. Era andato in America per motivi di studio. Ma dopo il corso non tornò subito in Italia? In realtà ero partito con l'intenzione di tornare, ma poi successe un fatto che mi fece cambiare idea. Ah, sentiamo. Quando il corso stava per finire, uno dei professori mi propose di restare a lavorare con lui. Più fortuna di così, non ha dovuto neppure cercare lavoro. Beh, ebbi fortuna all'inizio, ma poi ho faticato molto, mi creda. Ci tenevo a fare carriera, e come straniero non era facile. Comunque ci è riuscito. Sì, ma è stato più duro di quello che credevo. E in certi momenti non ha pensato di tornare in Italia? No, non ci ho mai pensato. Anche perché nel frattempo mi ero sposato. Con un'americana, naturalmente? No, con una canadese. La conobbi per caso, a un party. Siete ancora insieme? Sì, dopo 20 anni siamo ancora una coppia molto unita. Complimenti, ha avuto fortuna anche in questo.